Buonasera e benvenuti a tutti. Questa è la seconda puntata di Uptown Rockers, qui alla voce Drago DJ come al solito, dal nord-est della Linin City su Railroad Radio Station. Questa era la nostra sigla, ma andiamo subito velocemente a sentire il prossimo pezzo. Beat International, Just Be Good To Me. Be Good To Me, Beats International, gruppo di Brighton, con alla voce una fantastica Lindy. Il pezzo è datato 1990, ma la cosa particolare è che in questo fantastico gruppo militava un certo Norman Cook, che avrebbe fatto successo in futuro con il nome di Fatboy Slim. Possiamo dire che questo gruppo ha aperto la strada a tutto un certo tipo di sonorità dub, che di lì a poco sarebbe esploso con gruppi del calibro dei Tricky, Portishead e Massive Attack. Ma ritorniamo alla mia vecchia passione del rap old school, e adesso andiamo ad ascoltare un pezzo del 1988. Sto parlando di Rob Bass e DJ Easy Rock. Il pezzo è It Takes Two. Cause I'm a winner, no, not a loser. To be an MC is what I choose. Ladies love me, so let's go, cuz. So what? I don't care. I'm number one, the uno, I like punk. Bring all the suckers, cause all of them I'll stomp. Won't neglect, but I will protect. All of my followers, cause all I want is respect. I'm not a boxer, but the man who rocks her. A slick brother that can easy out fox her. Cause I'm Rob, the last name Basius. And over mic, I'm known to be the freshest. So let's start, it shouldn't be too hard. I'm not a sucker, so I don't need a bodyguard. I won't flex, wear a bulletproof vest. Don't smoke Buddha, can't stand sex, yes. I'm at the bases in. I'm kinda stingy, that's why I don't wanna win. A funky rhyme to a foe or a good friend. Now listen up, cause I want you to comprehend. Cause I'm the leader, the man, superior. I take curia and then you get worrier. So just sit, my mother not counterfeit. The record sells, which makes this one a hit. It won't hurt to listen to Red Alert. Take off the shirt, make sure I don't hit the dirt. I like the kids, the guys, the girls. I won't conduct it, this is Raw Bass World. I'm on a mission, you better just listen to my rhymes, cause I'm all about dissing, cause DJ Easy Rock, un mix su Profile, la mitica etichetta Profile, un pezzo che ha fatto saltare tutto il mondo. Ma adesso dagli Stati Uniti ci spostiamo di nuovo in Inghilterra, tra Sheffield e Manchester, dove già in passato la new wave inglese era emersa con la sua vibrazione piuttosto funk. Inoltre vi ricordo che Sheffield è la patria di una mitica etichetta, l'etichetta War. Ritorniamo proprio in Inghilterra per ascoltare quel sound che avrebbe dato fama al movimento crusty rave britannico, quello delle tribe come gli Spiral. Il gruppo che andiamo a sentire ora sono gli Shaman, però questa volta remixati da un certo Justin Robertson, qui nelle vesti di Lion Rock con un dub mix d'eccezione. Il pezzo si chiama Boss Drum, siete sempre all'ascolto di Uptown Rockers sulle frequenze di Railroad Radio Station, sempre streaming, sempre dalla Lini City. Revival, this is survival. Natural, magical buttons of percussion is the discussion, so listen up close. Let it connect you to the powers that be with the healing rhythmic synergy. Techno tribal, a positive primal, shamanic, anarchistic, archaic revival. Detroit, Juan Atkins e Derek May sono due amici che fonderanno il suono della Detroit Techno. Proprio nel libro prendo spunto per andarvi a far sentire il prossimo pezzo. Tratto dal disco Scary Monster di David Bowie, il pezzo si chiama Fashion ed è proprio con questa canzone che i due si dilettavano nel mixaggio, mixandola con Flashlight di George Clinton e Rapper Dapper Snapper di Edwin Birdsong. Ma mentre mi accendo l'ennesima sigaretta vi lascio sulle note, sulla voce del Duca Bianco David Bowie. Yeah. 1980, David Bowie, Fashion, bellissimo pezzo, batteria serrata e basso incalzante, quasi un pezzo funk. Ma andiamo indietro nel tempo, e arriviamo al 1977 con un pezzo inciso tra Detroit e Los Angeles. La canzone in questione è Flashlight dei Parliament di George Clinton, veramente un gruppo formidabile, con alla voce lo stesso George Clinton, alle tastiere al sintetizzatore Bernie Warner, alla chitarra Michael Hampton, al basso Cordell Mawson e un'ottima sezione fiati con Fred Wesley e Maceo Parker. Il batterista in questo pezzo è Jerome Braley. Il disco, seppur inciso a Detroit e ad Hollywood, viene lanciato da un'etichetta di New York, la Casa Blanca, ormai però nel 1977 già accorpata alla major label Polygram. Questo è Flashlight, il penultimo pezzo di questa puntata, prima di passare al mixatone di questa seconda settimana di ottobre, seconda settimana di Uptown Rockers, Flashlight e i Parliament. Parliament Funkadelic Flashlight, bellissimo pezzo. I Parliament che erano riusciti a svangare il trend della disco music che aveva minato i più radicali gruppi funkettari dell'epoca, come scrive nel 1978 John Rockwell, un giornalista del New York Times. I Parliament Funkadelic furono uno dei gruppi che più brillantemente reagì alla sfida alla disco, svettando nelle classifiche, nei primi posti delle classifiche, proprio con questo pezzo Flashlight, tratto dall'album Funk and Tallacy Against the Placebo Syndrome. È mezzanotte e 53 minuti, tanto per darvi l'idea della diretta, siamo arrivati all'ultimo pezzo. Una song vecchia del 1988, ma fresca per la mia collezione, dato che l'ho scovata in un piccolo ma grande negozio nel centro di Pisa che vende dischi usati. Sto parlando di Bomb the Bus, il gruppo di Tim Simenon e Neely Hooper. Neely Hooper, che poi ritroverete nei Soul to Soul. Il pezzo si intitola Don't Make Me Wait. E io vi saluto con queste note e vi do appuntamento alla prossima settimana. Scaricate in streaming la puntata e ascoltate il mixatone che andrà in onda tra pochi istanti. Da Drago DJ qui è tutto, buonanotte dalla Linen City.